siamo giunti alla fine con Betlemme, grazie ad un regista particolarmente vitale, un gioco di parole per ringraziare Pierfranco Vitale, e grazie a tutti voi per la cortese attenzione, scusandoci ancora del fatto che la sigla della caccia sia stata provvisoriamente rapita, speriamo, come una secchia del 1997. Chissà il riscatto che ci chiedono, sperando di recuperarla per domenica prossima, l'appuntamento rimane confermato e rinnovato. Domenica prossima alla medesima ora, grazie a tutti per l'ascolto. Grazie e buona settimana.